le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Varoufakis lascia l'incarico di ministro delle finanze. Voglio favorire l'accordo, dice, ma dopo il no al referendum in Grecia la tensione coi creditori e con la Germania resta alta. La Banca Centrale Europea dovrebbe mantenere la liquidità alle banche elleniche in attesa di decisioni politiche. Giù i mercati, Milano scende del 2,5%, sale lo spread ma entro i limiti di guardia. Il presidente della Campania, De Luca, vara la giunta. Ci sono 6 donne e 2 uomini. Il vice, che potrebbe prendere il suo posto in caso di applicazione della legge Severino, sarà il deputato del PD, Bonavitacola. È iniziato, dopo il decreto varato dal governo, il dissequestro dello stabilimento Fincantieri di Monfalcone. Forse da questo pomeriggio gli operai potranno tornare al lavoro. Sarebbero stati hackerati i server di un'azienda italiana che vende sistemi di sicurezza e sorveglianza ai governi. Sarebbero stati sottratti 400 giga di dati. Torna la violenza in Nigeria, dove in 2 attentati ad una moschea e ad un ristorante sono morte 44 persone, almeno 47 i feriti. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, i nostri contatti in apertura, effettogiorno@radio24.it, la nostra pagina sul sito www.radio24.it e se volete intervenire durante la diretta c'è il numero di sms, il 349-238-6666. In apertura dunque torniamo ad Atene, partendo proprio da qua e dalle dimissioni del ministro delle finanze Varoufakis. Un buongiorno alla nostra inviata Valeria De Rosa. Valeria. Buongiorno a te Simone, agli ascoltatori. Come dicevi, dimissioni del ministro delle finanze Varoufakis, che questa mattina intorno alle 7:30 ha twittato il suo quanto ha scritto sul blog, cioè che faceva un passo indietro per favorire i negoziati, la ripartenza delle trattative, perché era chiaro di non essere gradito al tavolo, soprattutto da certi interlocutori, e quindi ha voluto favorire l'operato del primo ministro. Qui devo dire che ad Atene la notizia non ha destato poi tutto questo grande stupore, un po' perché forse i greci un pochino se l'aspettavano. La vittoria di ieri è stata talmente eclatante che forse dall'altra parte, per non stravincere, Tsipras ha dovuto offrire la testa del suo ministro delle finanze, un po' anche perché con tutte le persone con cui ho parlato devo dire che non ho riscontrato questa grandissima simpatia nei confronti di Varoufakis. Però all'indomani del voto, che come ripetiamo ha davvero spiazzato un po' tutti, devo anche dire che i greci non hanno alcun atteggiamento arrogante. È vero che ieri ha vinto il no, ma è anche vero che loro continuano a stare male, si rendono perfettamente conto della loro situazione. Qui oggi ci sono ancora le code ai bancomat, sono sempre code molto contenute, lo ripetiamo, anche perché anche oggi ho visto fotografie di code molto esagerate, immagini molto forti. Questa mattina, parlando con una signora, mi ha detto, con tono anche molto arrabbiato, mi ha detto: ma dove eravate voi quando le code noi le facevamo alle mense pubbliche, dove fanno le code c'erano fuori dagli uffici di collocamento, anche quelle sono code, eppure mettete in prima pagina solo quelle ai bancomat. Quindi diciamo che l'atteggiamento è di è vero che c'è stata una vittoria del no, ma è anche vero che hanno perfettamente chiara quella che è la loro situazione. Ti ringrazio, grazie alla nostra inviata ad Atene, Valeria De Rosa, e andiamo ad un altro inviato ad Atene del Sole 24 Ore, Vittorio Darold, più che altro in questo caso per fare il punto sul da dove, ammesso che la trattativa con l'Europa riparta, può ripartire, posto che pochi istanti fa, e verremo a tutte le altre reazioni, il vicepresidente della Commissione Dombrovskis dice la ristrutturazione del debito non è sul tavolo. Vittorio, buongiorno, da dove ripartiamo? Sì, esattamente, sì, parlo davanti al palazzo del Presidente della Repubblica, dove c'è una riunione di emergenza di tutti i partiti delle forze presenti in Parlamento, esclusa Alba Dorata, quindi si sta cercando di trovare anche una maggiore unità nazionale nei confronti della seconda fase dopo il referendum del no. Il governo probabilmente adesso avrà un nuovo ministro delle finanze che dovrebbe essere più gradito ai creditori, quindi una figura che abbia una minore forza e una minore, diciamo, capacità di infastidire, perché Varoufakis aveva fatto un po' da testa d'ariete al punto che all'ultimo meeting di Riga era stato tacciato di dilettantismo e di essere un giocatore d'azzardo, quindi è una situazione veramente ormai insostenibile. Cosa faranno? Probabilmente proporranno la riduzione del debito utilizzando le divisioni interne creditori. Lo stesso Fondo Monetario Internazionale ha detto che senza una ristrutturazione, quindi un taglio del debito, il debito greco non è sostenibile, ma gli europei naturalmente non ne vogliono sentir parlare. Io penso che i greci a questo punto cercheranno un compromesso ad ogni costo o almeno un inizio delle trattative del negoziato per dare il via libera alla Banca Centrale Europea di poter dare innalzare i crediti di liquidità che terrebbero in piedi le banche greche, che sono con solo 1 miliardo di euro nelle casse, quindi sono ormai agli sgoccioli. E da Atene tutti, otti e studio. Grazie Vittorio Darold, tra poco parleremo anche di quello che ci si attende dalla Banca Centrale Europea. Ieri nello speciale che abbiamo fatto dalle 20 alle 22 abbiamo avuto anche una persona che si occupa di mercati, la quale ci ha detto prevedo per domani una giornata di tensione per quanto riguarda il mercato azionario, di qualche tensione ma un po' ridotta per quanto riguarda quello obbligazionario dei titoli di Stato. Deborah Rosciani, mi pare che stia andando proprio così. Sta andando esattamente così, infatti l'altro tema al centro del dibattito in questo momento, anche gli operatori dei mercati finanziari fanno con grande difficoltà le previsioni su quello che potrebbe accadere nei prossimi giorni alla luce appunto del risultato del referendum di ieri sera. Allora, la partenza è stata negativa questa mattina per le borse europee, non così brusca come si era manifestata quando Tsipras ha indetto il referendum e lo ha brutalmente comunicato al mercato. Ricorderete una settimana fa perdite nell'ordine del 4-5%, Milano aveva avuto la perdita più violenta di tutte. Stamattina il quadro è meno 1,46% per Parigi, tra l'altro c'è un peggioramento proprio negli ultimi istanti, perché fino a quando io sono stata in onda con Cuore Denari i cali si erano ridotti al di sotto del punto percentuale, per cui è ritornato un altro filo di nervosismo proprio negli ultimi secondi e secondo me viene attribuito anche alla diffusione molto massiccia che sta avvenendo da qualche minuto di una serie di report che indicano le percentuali di Grexit. Ce n'è proprio poco fa è stata diffusa una di Société Générale che dà l'uscita della Grecia dall'Unione Monetaria al 65%, per cui il mercato ragiona un po' anche su questi rapporti. Quindi dicevamo, Parigi perde adesso 1,5%, Francoforte meno 1,29%, Londra perde 0,5%, Milano perde di più, meno 2,8% sul FTSE MIB, il motivo per cui la perdita di Milano è quella più forte rispetto agli altri listini europei, perché c'è questa forte esposizione nel settore finanziario e quindi le banche, quando lo spread si divarica, naturalmente ne risentono particolarmente. Lo spread adesso è a 163 punti base, era partito su questo livello, poi è tornato a 155, adesso si è ampliato di nuovo. Il nervosismo non manca, ma non è così forte come molti pensavano ieri sera. Simone. Grazie Deborah Rosciani. Sui mercati, come sempre, torneremo alle 13.30 con i colleghi di Radio Cori, Il Sole 24 Ore. Come si diceva, si attendono le mosse della Banca Centrale Europea. Buongiorno al corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte, Alessandro Merli. Sì, buongiorno. La BCE ha due problemi. Il più urgente è cosa fare con i finanziamenti di emergenza alle banche greche. Li ha congelati la domenica passata e a questo punto deve decidere cosa fare. Io credo che difficilmente la BCE, con la politica che ancora è in movimento, un possibile summit europeo per domani sera, bloccherà definitivamente questi finanziamenti, perché vorrebbe dire in pratica far saltare le banche greche, far saltare lo Stato greco e far uscire la Grecia dall'euro, una responsabilità che la BCE non si vuole assumere. Però è anche impensabile che, come ha detto ormai ex ministro Varoufakis, le banche riaprano in settimana, perché i fondi che hanno già avuto dalla BCE ormai li hanno esauriti. L'altro problema è quello del contagio sui mercati agli altri paesi, però fino a questo momento sembra essere stato abbastanza contenuto, ma in ogni caso la BCE è pronta a intervenire, casomai accelerando gli acquisti di titoli in base al QE. Grazie ad Alessandro Merli, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte. Veniamo adesso alle reazioni internazionali, comprese naturalmente quelle europee. Laura Bettini. Buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. C'è soltanto l'imbarazzo della scelta. Comunque cominciamo dalla prima reazione ufficiale della Commissione Europea, che è stata quella del vicepresidente della Commissione Dombrovskis, che ha parlato poco fa in conferenza stampa. We respect the democratic choice of the Greek people. Dice: rispettiamo la scelta democratica del popolo greco, ma non c'è una facile via d'uscita dalla situazione. L'esecutivo europeo non può andare avanti senza un mandato dell'Eurogruppo e questo l'ha ripetuto Dombrovskis più volte. Ha aggiunto anche nella stessa occasione che la stabilità dell'Eurozona non è in discussione, che il posto della Grecia è in Europa, ma che la ristrutturazione del debito, come anticipavi tu, non è sul tavolo. Cos'altro sta accadendo? Il Presidente della Commissione europea Juncker dovrebbe aver già avuto un incontro in teleconferenza con il Presidente del Consiglio europeo Tusk, il governatore della BCE, il Presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloem, che dovrebbe tra l'altro parlare tra non molto. Si riunisce l'Euro Working Group, composto dai direttori generali dei tesori nazionali, in vista appunto dell'Eurogruppo di domani e del successivo summit europeo. La Merkel starà stasera a Parigi per incontrare Hollande. Le posizioni di partenza, come sappiamo, sono molto diverse, una più rigida, l'altra più incline alla trattativa. Il portavoce del primo ministro britannico Cameron ha detto che trovare una soluzione è chiaramente nell'interesse della Gran Bretagna. Chi è passato attraverso le forche caudine della Troica in passato, e cioè Madrid e Lisbona, invece è chiaramente molto intransigente in questo momento e vorrebbe che si tenesse la barra dritta. Il ministro delle finanze austriaco, anche lui, si è messo sulla linea dura. Da Washington al momento non c'è alcun commento ufficiale. Da Mosca il Cremlino spera che Atene raggiunga un compromesso e si è saputo che il presidente Putin dovrebbe parlare con Tsipras in giornata. Vedremo che cosa succederà dunque anche nell'arco di questa giornata dal lato delle reazioni, grazie a Laura Bettini. Intanto nel frattempo se ne discute ovviamente anche in Italia. Pochi istanti fa un lungo status su Facebook del Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno, diciamo subito. Allora, Simone, del faccia a faccia durato 2 ore di questa mattina a Palazzo Chigi tra il Presidente del Consiglio Renzi e il Ministro dell'Economia Padoan. Si sarebbe fatto allora il punto, e non poteva essere altrimenti, sugli scenari futuri, con un occhio all'andamento mattutino dei mercati finanziari. Poco fa la linea del Premier affidata alla sua pagina Facebook: ci sono due cantieri da affrontare rapidamente nelle capitali europee. A Bruxelles, scrive Renzi, il primo riguarda la Grecia, un paese che è in una condizione economica e sociale molto difficile. Gli incontri di domani, scrive Renzi, dovranno indicare una via definitiva per risolvere questa emergenza. Il secondo, ancora più affascinante e complesso, ma non più rinviabile, è il cantiere dell'Europa. Da mesi, aggiunge Renzi, stiamo insistendo per discutere non solo di austerity e bilanci, ma di crescita, infrastrutture, politiche comuni sulla migrazione, innovazione, ambiente. In sostanza, Palazzo Chigi fa proprie le parole di ieri sera del Presidente della Repubblica Mattarella: rispetto per la decisione del popolo greco, ma ora per l'Unione Europea si apre aprono scenari inediti che richiederanno a tutti senso di responsabilità, lungimiranza e visione strategica. Per chiudere, Simone, le parole del ministro degli esteri Gentiloni: la decisione di fare il referendum è stata una mossa azzardata e imprevista da parte di Tsipras. Non bisogna credere che la vittoria del referendum abbia risolto il problema. È tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta per questi aggiornamenti. Noi restiamo sulla politica, però, per parlare del varo della giunta da parte di Vincenzo De Luca. Il varo della giunta in Campania, poi sui temi della Grecia torneremo tra un attimo nella seconda parte della trasmissione e anche nella terza parte, a dire il vero. Carmelo Presti Simone, com'è questa giunta De Luca? Buongiorno, è nata la nuova giunta della Campania di Vincenzo De Luca, il nuovo governatore che ha superato almeno per ora gli ostacoli della legge Severino. Fulvio Bonavitacola sarà il vicepresidente, battuta la concorrenza di Raimondo Pasquino. Questa quindi la squadra di De Luca, con 6 donne in giunta e 2 soli uomini: Livia D'Alessio al bilancio, Valeria Fascione all'internazionalizzazione e alle start-up, Lucia Fortini alla scuola e alle pari opportunità, Chiara Marciani al lavoro e alla formazione, Sonia Palmieri alle risorse umane e al territorio, Livia Angioli ai fondi europei, Amedeo Lepore alle attività produttive. Bonavitacola avrà anche la delega all'urbanistica, mentre De Luca ha tenuto per sé agricoltura, ambiente e trasporti. E proprio sulla giunta in rosa, il Presidente De Luca ha detto ironicamente: siamo riusciti a tutelare la quota azzurra. Il capo di gabinetto sarà Sergio De Felice, mentre De Luca ha nominato anche 4 consiglieri di fiducia, che sono Francesco Caruso, Mario Mustilli, Paolo De Ioanna e Sebastiano Maffettone. È tutto per ora, a te Simone. E grazie a Carmelo Presti Simone per questi aggiornamenti. Parliamo di una vicenda di questa mattina: sarebbero stati violati i server di Hacking Team, un'azienda italiana che vende sistemi di sicurezza ai governi. Immaginate che qualcuno cominci a spiare nell'ufficio di un investigatore privato, che un ladro rubi alla polizia o che scoppi un incendio nella caserma dei pompieri. È più o meno quello che è accaduto nella notte ad Hacking Team, una società di Milano molto nota nell'ambiente della security a livello mondiale e specializzata in intrusioni informatiche. L'account Twitter è stato compromesso e sono state pubblicate su internet molte email e documenti riservati che potrebbero essere compromettenti. La società fornisce software molto sofisticati a stati, agenzie governative, di intelligence o militari per attacchi informatici per compromettere e mettere le mani sul contenuto di computer o smartphone. Da tempo Hacking Team è nel mirino delle organizzazioni internazionali che difendono i diritti digitali, che l'accusano di vendere i propri software anche a dittature che usano questi sistemi per spiare i propri cittadini. L'attacco di queste ore potrebbe essere opera di hacker che lavorano per queste organizzazioni. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Oh, abbiamo parlato tanto di calcio femminile per le infelici uscite di Belloli, parliamo di calcio femminile per il calcio giocato, perché questa notte si è concluso il campionato del mondo. Dario Ricci. Eh sì, Stati Uniti campioni, o meglio campionesse, no? Direi che è sicuramente termine più adatto. A Vancouver la finale, battuto il Giappone per 5-2, tripletta della fortissima Carly Lloyd e rivincita rispetto a quella che era stata la finale del 2011 dalle giapponesi, vado a memoria, in Germania, se non sbaglio. Beh, insomma, più che il risultato, che innanzitutto anche sollecitato Barack Obama a felicitazioni via Twitter, ha scritto proprio il presidente statunitense: che vittoria Team USA, grande partita Carly Lloyd, il tuo paese è molto orgoglioso di te, vieni a trovarci alla Casa Bianca presto con la Coppa del Mondo. Beh, più che il risultato è la gioia di Obama, che già non è poco, conta un po' dare un peso specifico, no, di questo movimento. Ecco, bisogna dire, Simone, francamente, che il calcio femminile è popolare, diffuso e apprezzato in tutto il mondo tranne che qui da noi, e questo è motivo di rammarico. Basti pensare che negli Stati Uniti, soprattutto a livello universitario, femminile è forse lo sport più praticato. Cioè, l'idea è quella: tu intanto giochi a soccer e poi vediamo cosa farai da grande, no? Per le ragazze. Quindi è un successo che non arriva inaspettato. Ti ricordo una cosa che magari ti farà piacere: anche nella tua Roma c'è un pezzo di questa grande America del soccer femminile, perché nel CDA della squadra giallorossa c'è Mia Hamm, che è stata la più grande campionessa del calcio a stelle strisce e che diciamo ha preceduto di qualche anno questa generazione altrettanto vincente. Come possiamo consolarci? Beh, sicuramente lo scivolone di Belloli ha dato il via, speriamo, innanzitutto a dei progetti più seri per lo sviluppo. Per paradosso ha acceso l'attenzione su questo mondo, e qualche campionessa ce l'abbiamo anche noi. Basta pensare alla nostra Raffaella Manieri, che fresca vincitrice della Bundesliga femminile con la prestigiosissima maglia del Bayern Monaco. E per capire come funzionano lì le cose, quel Bayern Monaco femminile ha festeggiato il titolo insieme al Bayern Monaco maschile nella stessa occasione, sulla stessa terrazza del municipio di Monaco. Tra l'altro l'intervista con Raffaella Manieri è anche disponibile nei podcast di Olimpia, perché ci ha raccontato questo trionfo. E quindi andatevela a cercare sul sito di Radio 24. Noi ci fermiamo, sentiamo che cosa succede sulle strade e poi torniamo a parlare di Grecia, ma parliamo anche di scuola, perché stanno arrivando una pioggia di ricorsi sul tema delle assunzioni. A tra poco. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Varoufakis lascia l'incarico di ministro delle finanze greco. Voglio favorire l'accordo, dice. La Banca Centrale Europea dovrebbe mantenere la liquidità alle banche greche in attesa di decisioni politiche. Renzi, domani bisogna indicare la via per uscire dall'emergenza. Il presidente della Campania De Luca vara la giunta. 6 donne e 2 uomini. È iniziato, dopo il decreto varato dal governo, il dissequestro nello stabilimento Fincantieri di Monfalcone. E torniamo dunque a parlare di Grecia, e lo facciamo con Tobias Piller, corrispondente in Italia della Frankfurter Allgemeine Zeitung. Tobias, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Basterà alla signora Merkel la testa di Varoufakis? Mi sembra che è un certamente una buona premessa non avere più quel signore alle trattative che aveva anche fermato tante volte le cose sul nulla. Bisogna immaginarsi che tanti ministri andavano a Bruxelles 10 volte in poche settimane solo per sentire un discorsetto di Varoufakis, ma senza avere una proposta sul tavolo. Poi alla fine li chiamava terroristi. Vabbè, ma dopodiché in Germania così si prende quota questa idea che così dimentichiamo il debito, lo mettiamo da parte, ma non diamo più nuovi non diamo più nuovi soldi, perché sarebbe buttare soldi freschi dopo i soldi già marci. Quindi fammi capire, Tobias, l'ipotesi è che si possa procedere, nonostante quello che ha detto il vicepresidente della Commissione europea, verso una ristrutturazione del debito greco, e però non un nuovo programma di aiuti. Questo è quello che io vedo dalla Germania, che dal ministro delle finanze è venuto così questo commento che no a una ristrutturazione del debito. E poi la Merkel invece dice: vogliamo vedere e sentire quali sono le loro proposte, così domani, così bisogna sentirli. Quindi ti sembra possibile in sostanza che come dire, alcune rigidità tedesche che avevamo visto all'inizio vengano rotte, nel senso che si prosegua a trattare nonostante il no al referendum? La Merkel e altri hanno detto che ci vuole che ci vorrebbe un accordo abbastanza sostanzioso per andare avanti a finanziare la Grecia. Poi adesso per creare un nuovo trattato per un terzo pacchetto di aiuti, la strada è ancora più stretta, specialmente dopo un no che dice da parte dei greci: non siamo d'accordo ad accettare condizioni. Così non mi sembra poi il caso a buttare tutto sul tema di una ristrutturazione del debito, un debito che si deve ripagare dal 2021 in poi di fronte agli altri paesi dell'Unione Europea. Questo non mi sembra il problema di oggi. Oggi c'è un debito piccolissimo, così di 45-50 miliardi di fronte a Fondo Monetario e Banca Centrale Europea, e c'è poi un debito di 80 miliardi di fronte ai creditori privati. Dopodiché cosa vogliono fare per crescere, per far rientrare tutta la speculazione che c'è per il caso che la Grecia esca dall'Unione Monetaria? Questo è il problema, così questo run sulle banche che ha fermato l'economia. Se certamente ci fosse un accordo, potrebbe anche rientrare tutto molto velocemente, perché se non ci sono più le brutte previsioni, l'economia si riprende. Ma questo governo ha una concezione dell'economia molto di sinistra, molto contro investimenti privati che erano già pronti in progetti di privatizzazione. E allora la domanda è anche: qual è il loro modello di crescita? Sì. E lì è la battaglia da fare. Da fare con controllo dello Stato sull'economia mi sembra un concetto diverso del resto dell'Europa. Tobias, molto brevemente chiedo una risposta, se puoi, in 30 secondi. Secondo te Angela Merkel sarebbe disposta a far scivolare la Grecia fuori dall'euro nel caso, come dire, o è disposta a tentare fino all'ultimo di tenerli dentro? La Merkel l'ha già fatto vedere così, avendo detto che è a favore di un incontro, un vertice domani che è veramente a favore, a tentare di tutto, ma non mi sembra che sarà vendibile questa idea che si possa veramente vendere al resto dell'Europa questa idea che pagate per la Grecia comunque. Questo mi sembra anche sarebbe poco democratico. Grazie a Tobias Piller, corrispondente in Italia della Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ogni tanto, quando ospitiamo Tobias o chi la pensa come i tedeschi, arrivano via sms molte critiche. Signori, vogliamo dare un punto di vista anche su come, questo era esattamente l'obiettivo, su come i tedeschi la vedono in questo momento, su come il governo tedesco sta lavorando intorno a questa vicenda che è evidentemente cruciale. Massimo Di Menna, cambiamo decisamente argomento, segretario della UIL Scuola, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Sta arrivando, abbiamo letto sui giornali, una pioggia di ricorsi dei dei precari o ex precari della scuola, per così dire, perché sono ricorsi che riguardano quelli che non sono entrati in graduatoria, da quel che ho capito, ma anche coloro che rischiano di essere spostati di sede, è così? Esattamente, sì, c'è noi riceviamo tantissime telefonate, tantissime richieste di assistenza, perché sia precari che rimarranno precari, sia precari per i quali è prevista l'immissione in ruolo, sono preoccupati che non ci sia una chiarezza, una trasparenza nella gestione di queste procedure. Ma in termini di numeri avete già un'idea oppure no? No, guardi, le missioni in ruolo riguardano fino al 15 di settembre, cioè quegli insegnanti che dovranno essere direttamente in cattedra con i ragazzi che li attendono, le classi funzionanti, 36.000 dovranno avere una procedura, diciamo, regolare senza particolari problemi. Ce ne sono altre 10.000 che dovranno andare a coprire posti con spostamenti da provincia a provincia, e poi ci sono le aspettative di circa 20.000, 30.000 abilitati, precari, che insegnano da anni, per i quali il disegno di legge non ha previsto alcunché, se non nella possibilità di reiterare ancora i contratti a tempo determinato, tra l'altro prevedendo una quantità di risorse finanziarie che lo Stato si appresta a dover spendere, perché queste persone vincerebbero i ricorsi per il danno. Mi sembra di capire, brevemente, Di Menna, mi sembra di capire che in realtà sono dei ricorsi che hanno forti probabilità di essere accolti. Ma questi dei precari di seconda fascia, cioè gli abilitati che in base alla sentenza della Corte Europea non hanno visto la legge assolutamente tenerne conto, sono già molte sentenze precedenti. Poi abbiamo un certo numero di persone, anche qui intorno a sicuramente 10.000, che hanno già per la loro tipologia delle sentenze, dei pareri del Consiglio di Stato favorevoli per essere inseriti nelle graduatorie di esaurimento. I diplomati magistrali nel 2001-2002, addirittura i titolari delle abilitazioni attraverso le ultime fasi di PAS, che aspirano a entrare per le missioni in ruolo. E poi ci sono le procedure, una cosa nuova di quest'anno, delle missioni in ruolo di persone che sono nelle graduatorie, che sono a Napoli o principalmente nel sud d'Italia, che devono spostarsi per i posti nel nord Italia. E poiché le nomine dell'organico aggiuntivo, gli altri 50.000 posti verranno fatti in corso d'anno scolastico, si rischia che i primi in graduatoria debbano spostarsi, alcuni sì, da provincia con 48, 49, 50 anni di età, parliamo di precari. E gli ultimi, posti, gli ultimi in graduatoria no, rimangono vicino casa a stare a disposizione. Quindi questo sì, sta creando molta tensione. Un po' confuso il meccanismo, evidentemente. Complesso e può creare problemi. Grazie a Massimo Di Menna. Grazie segretario della UIL Scuola. Cambiamo decisamente argomento. Andiamo in Nigeria per due attentati che ci sono stati questa mattina. Si aggrava il bilancio delle persone rimaste uccise nel duplice attacco messo a segno a Jos nel centro della Nigeria. La prima esplosione è avvenuta nei pressi di un centro commerciale situato vicino a una stazione di autobus e all'università della città. La seconda, pochi minuti dopo, nei pressi di una moschea molto frequentata. Gli attacchi non sono stati rivendicati, ma Jos è la capitale dello stato di Plateau, che si trova tra il sud a maggioranza cristiana e il nord musulmano, e negli ultimi 10 anni è stato teatro di violenze di matrice religiosa che hanno causato migliaia di morti. Ieri un'estremista islamica di Boko Haram si è fatta esplodere in una chiesa nel nord-est della Nigeria, a Potiskum, uccidendo 5 fedeli che partecipavano alla messa domenicale. E 3 giorni prima, nella stessa area, i militanti islamici hanno dato alle fiamme 32 chiese e 300 abitazioni. Solo nell'ultima settimana il numero di morti causati da Boko Haram è stato di oltre 200. Pieno il sostegno da parte degli Stati Uniti. Un elemento nuovo potrebbe venire dall'incontro il 20 luglio prossimo alla Casa Casa Bianca tra il capo di Stato nigeriano Buhari e il presidente Barack Obama. In agenda ci sarebbero una serie di aiuti da parte degli Stati Uniti nella lotta contro Boko Haram. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ci fermiamo, ci ritroviamo tra un attimo per la borsa e poi torneremo a parlare di Grecia, lo faremo con Enrico Zanetti, sottosegretario all'economia e segretario di Scelta Civica. Parleremo con lui sia da sottosegretario all'economia per capire l'impatto sull'Italia, sia come segretario di Scelta Civica, perché lui dice a questo punto tutti gli altri 18 paesi, ci sono altri 18 paesi che dovrebbero fare un referendum per decidere se il referendum sulla Grecia gli va bene. A tra un attimo. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Varoufakis lascia l'incarico del ministro delle finanze greco. Voglio favorire l'accordo, dice. La tensione con i creditori e con la Germania resta però alta. La BCE dovrebbe mantenere la liquidità alle banche greche in attesa di decisioni politiche. Giù i mercati. Il presidente della campagna De Luca vara la giunta. Ci sono 6 donne e 2 uomini. È iniziato, dopo il decreto varato dal governo, il di sequestro nello stabilimento Fincantieri di Monfalcone. Lavoro. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ed eccoci di nuovo e ancora a parlare di Grecia. Saluto Enrico Zanetti, al quale faremo una domanda per ciascuna veste, una come sottosegretario all'economia e l'altra come segretario di Scelta Civica. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno in entrambe le vesti. Partiamo dalla prima veste e le chiedo dei rischi per l'Italia. Ma guardi, i rischi per l'Italia in questo momento continuiamo a ritenerli assolutamente contenuti. La situazione è molto diversa da quella passata, dove effettivamente anche oscillazioni di questo tipo potevano avere degli impatti devastanti sul nostro paese. Adesso ci possono essere degli assestamenti che già si vedono nelle dinamiche anche dello spread, ma che si mantengono su dei livelli neanche lontanamente paragonabili a quelli che ci misero così drammaticamente in difficoltà nel 2011. Diciamo anche perché abbiamo l'ombrello della BCE adesso, tutto assolutamente sommato. Ci sono delle differenze oggettive sia di contesto nazionale sia di contesto comunitario. A livello comunitario ci sono strumenti che all'epoca ancora con una timidezza francamente eccessiva non si erano voluti mettere in campo e anche con pressioni reiterate da parte dell'Italia negli anni sono arrivati, e poi una differenza nazionale perché è oggettivo che se dal 2012 in avanti non avessimo gestito alcune scelte oggettivamente molto dolorose, che se avessimo fatto anni prima lo sarebbero state meno, oggi, insomma, non l'avessimo fatto nemmeno dal 2012 in avanti, ce le ritroveremo addosso moltiplicate per 10. Vede un'uscita della Grecia dall'euro, Zanetti? Guardi, più che vederla, mi sembra che è la Grecia che sta andando in quella direzione. Io penso che la sovranità popolare sia ovviamente da rispettare in toto, ma già era da rispettare la sovranità di un governo democraticamente eletto che poteva tranquillamente prendere quelle decisioni, ha voluto sentire il popolo, buono, benissimo, quindi ancora più forte quella volontà. Resta il fatto però che ci sono come scenari possibili quella di stare nella comunità dell'euro alle condizioni a quale ci si trova tutti assieme, oppure di uscire dall'euro. Questa espressione di sovranità popolare, volerci restare dentro ma alle proprie condizioni diverse da quelle che possono essere state concesse in questi anni ad altri paesi che si hanno fatto la loro parte per rimanerci e hanno ricominciato poi un lento percorso di crescita, quella invece non è un'opzione democratica, quella è un'opzione unilaterale lato Grecia, e francamente questa la ritengo un'opzione impraticabile. Sì, lei dice addirittura ci vorrebbero 18 referendum nei paesi dell'area. Certo, la mia è una, diciamo, l'estremizzazione in questo ragionamento, che è il ragionamento ovviamente base, porta a una provocazione che però credo aiuti anche a inquadrare i termini della questione, cioè nell'istante in cui la Grecia ha di fronte a un referendum di questo tipo, anziché dire bene signori, noi a questo punto scegliamo la nostra strada e usciamo dall'euro, scelta assolutamente legittima da parte di un paese sovrano, ma dice no, comunque vogliamo restare nell'euro alle nostre condizioni, beh a quel punto ci facciamo 18 referendum negli altri 18 paesi e vediamo se gli altri popoli, non i governi, gli altri popoli europei pensano che questo atteggiamento da parte dei greci sia davvero eroico o sia piuttosto un pochino quello furbo ed egoista di chi vuole rimanere dentro alla copertura che ti dà l'euro, ma lo vuole fare senza minimamente contribuire alla sua parte di riforme che invece deve essere fatta. Un'ultima domanda di nuovo da sottosegretario. non ritiene, immagino, che quello che sta avvenendo in Grecia e un'eventuale uscita della Grecia dall'euro ci costringa a rivedere le previsioni per quanto riguarda il nostro paese? Ma le previsioni legate al costo del debito, nell'istante in cui ci siano delle oscillazioni sugli spread, sicuramente dovranno essere in parte rivedute, però come dicevo prima, se si rimane su queste soglie che anche in questi giorni si stanno registrando, che pur sono maggiori di quelle di alcune settimane e mesi fa, sono soglie gestibili anche alla luce del fatto che noi abbiamo già in previsione per l'anno prossimo un certo spazio di manovra, nel senso che, così stando le cose, noi abbiamo un deficit all'1,4, invece grazie al fatto che abbiamo fatto delle riforme e ci viene riconosciuta una certa flessibilità possiamo salire fino a un 1,8. È chiaro che sarebbe bello usare il più possibile di quello spazio per fare misure pro crescita, ma eventualmente in parte andranno a coprire senza richiesta di nulla ai cittadini l'aumento del costo del debito. Grazie ad Enrico Zanetti, sottosegretario all'economia e segretario di Scelta Civica, per essere stato con noi. Andiamo a chiudere continuando a parlare di Grecia e parlando degli italiani che ieri erano là. Daniele Biacchessi. La vittoria del no in Grecia galvanizza la sinistra radicale e gli euroscettici italiani. I loro leader si sono fatti ritrarre ad Atene davanti al Parlamento greco accanto al premier Alexis Tsipras durante i festeggiamenti in piazza Sintagma. Da Beppe Grillo a Nichi Vendola, dall'ex PD Stefano Fassina all'esponente della minoranza Dem Alfredo Dattore, fino al segretario di Rifondazione Paolo Ferrero. Ad Atene ognuno ci è andato con la propria bandiera e per un interesse certamente di parte. Chi come Vendola intende portare avanti nel nostro paese un soggetto politico che tenga dentro Civatico, Ferrati, Pastorino, Fassina, Ferrero. Chi invece come Grillo si propone come il movimento più numeroso tra gli euroscettici. Le dichiarazioni rilasciate nelle ultime ore offrono sfumature che però tra loro diventano abissali. Il presidente di SEL, Vendola, parla di vittoria dei nemici dell'austerità e che si è aperta una crepa nel nuovo muro di Berlino. Per Stefano Fassina si tratta di una vittoria della speranza, ma per Beppe Grillo tutto il potere deve essere del popolo, non delle banche. E ad Atene qualcuno lo ha invitato ad andarsene dalla piazza. Siedi dalla parte sbagliata del Parlamento europeo, gli avrebbero gridato. E il voto greco fa esultare la Lega di Matteo Salvini e perfino Forza Italia. Come avevamo scritto solo qualche giorno fa, si tratta dunque di un fronte diviso, a volte rissoso, certamente non compatto, ma che potrebbe unirsi nella critica alle pratiche di austerità europee sotto la bandiera di Tsipras. Il traffico, America 24, ci ritroviamo subito dopo.